Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti a Salva Danaio. Per la borsa ancora una volta non è per niente un buon inizio settimana, poi vi racconterò quello che sta accadendo, ma vi dico del tema del quale parleremo questa mattina: carrello della spesa, la polizza auto, i figli, le bollette, le voci di spesa all'interno di un bilancio familiare sono molte. Spesso far quadrare i conti a fine mese è una vera impresa, ma quali sono gli accorgimenti da seguire per risparmiare? Domande che si pongono sempre le famiglie, considerati soprattutto gli attuali tempi di crisi. In questi giorni i giornali si sono messi a fare un calcolo che effettivamente non è molto divertente, ma ha una finalità utile: quanto potrebbe pesare nei prossimi mesi la manovra economica in esame nelle tasche delle famiglie, quali nuove strategie possono essere messe in campo per arginare gli effetti della manovra, che sono contestuali agli effetti della crisi generale, crisi che sta portando molte famiglie a tenere a bada con grande difficoltà il bilancio familiare, soprattutto perché in molte famiglie c'è una variabile negativa importante, la perdita del lavoro. Oggi a pagina 6 del Sole 24 Ore trovate la bussola per il consumatore: la famiglia fa i conti, con le nuove disposizioni è opportuno rivedere budget e abitudini. Oggi ci proviamo anche noi a vedere cosa sarà utile fare nei prossimi mesi, tenendo conto che la manovra è ancora in alto mare. I provvedimenti di venerdì sono stati già oggi cancellati, il provvedimento complessivo non ha ancora un volto certo e quindi soprattutto non hanno un volto certo le misure che riguarderanno le famiglie. Però, a prescindere dalla manovra, ci sono dei suggerimenti universali, validi sempre, a prescindere appunto dalle misure economiche. Noi stamattina di tutto questo parleremo, anche per capire quali sono le necessità di riorganizzazione che molte famiglie hanno. Diteci quali sono i vostri programmi autunnali, come state riorganizzando i piani familiari, la gestione del vostro bilancio, quali le spese che avete in programma di affrontare, cosa vi preoccupa di più della manovra. Allo studio raccontatecelo all'800 0024 0024, oppure all'SMS, al numero che vi dà l'opportunità di mandarci degli SMS: 349 238 6666. Noi stamattina parleremo di tutto questo con una collega giornalista esperta di tematiche sui consumi alimentari, Manuela Soressi, che saluto. Manuela, buongiorno, bentornata a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. L'associazione dei consumatori naturalmente non poteva mancare, l'ADOC, Carlo Pileri il presidente. Presidente, buongiorno. Buongiorno, salve. E poi, per avere un quadro generale sul tema intanto dei consumi alimentari, Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, che è un sito internet che permette di consultare gratuitamente le offerte promozionali di diverse catene di grande distribuzione. Mazzone, bentornato anche lei a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. È un benvenuto, perché invece è la prima volta che interviene a Salva Danaio, ad Andrea Manfredi, amministratore delegato di Supermani. Anche in questo caso abbiamo un altro sistema di comparazione online. Con lui ci focalizzeremo sul tema conti correnti, prestiti, assicurazioni per l'auto, luce e gas, telefonia, insomma tutto ciò che attiene al mondo estremamente eterogeneo delle spese della famiglia. E quindi insomma un tema che immagino tocchi molti di voi, e l'altro tema che tocca molti di voi e molti di noi è invece l'andamento dei mercati finanziari. Anche oggi una giornata che si è preannunciata dalle prime battute nera per la borsa europea. Peraltro oggi, qualora ci fosse stato in mente per Wall Street di alzarsi con il piede giusto, non lo sapremo mai, perché oggi Wall Street è chiusa per il Labor Day, per cui l'Europa deve portare a termine questa sua seduta da sola, senza stimoli da oltreoceano. E abbiamo Parigi che perde il 3,44%, Francoforte perde il 3,26%, Londra meno 1,99%, Milano meno 3,25% sul FTSE MIB. Che cosa è successo? Non ci sono per la verità fattori nuovi, ma la preoccupazione grande è una ricaduta in recessione, una prospettiva che è stata confermata dal dato sulla disoccupazione americana che è stato diffuso venerdì scorso, risultato molto deludente soprattutto per quello che riguarda il termine di creazione di nuovi posti di lavoro, perché il tasso di disoccupazione complessiva è rimasto stabile al 9,1%. Quindi questa è la preoccupazione preoccupazione generale. Le banche stamattina sono di nuovo nella bufera delle vendite in tutta Europa e sono pochi i titoli che si salvano. A Milano praticamente nessuno, come al solito è inchiodato sulla parità bulgari solo per effetto dell'offerta pubblica dei francesi di Elvemache, quindi il titolo ormai è inchiodato sul prezzo dell'offerta, non si muove, non è un titolo oggetto dell'interesse degli investitori in questo periodo. Ma vediamo i titoli che perdono meno a Milano: Parmalat meno 0,47, Snam Rete Gas meno 1,15, Campari meno 1,57, quindi anche quelli che perdono meno perdono parecchio, Generali meno 1,59%, Luxottica meno 1,85%, Terna meno 1,89%. Vendite invece molto forti sulle grandi banche, sui titoli industriali che avevano recuperato terreno settimana scorsa. Exor, l'holding di riferimento di casa Fiat, perde il 6%, Intesa San Paolo meno 5,70%, Unicredit meno 5%, Finmeccanica meno 4,94%, la Popolare di Milano meno 4,69%, con un meno 4 davanti abbiamo anche Impregilo, Buzzi Unicem, Fondiaria, Mediaset, Tenaris, Fiat Industrial, Ubibanca. E insomma, anche oggi vedo un bel, so che è un termine che non piace ai nostri ascoltatori, mi viene da dire un bagno di sangue in borsa, però insomma una giornata davvero brutta. Direi che con la descrizione della seduta possiamo anche fermarci. Lo spread, il differenziale di rendimento fra il nostro titolo decennale e il benchmark tedesco, è di nuovo sui 350 punti base, sia per le problematiche legate al debito pubblico italiano, ma anche perché il titolo tedesco sta viaggiando sul suo minimo storico all'1,99%. Molto ricercato il Bund tedesco, proprio perché il mercato ritiene che sia il rifugio in questa fase sul mercato obbligazionario. Se sia così non lo sappiamo, di fatto questa è la tendenza anche di questa mattina. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Allora, come si stanno muovendo i consumi delle famiglie italiane? Emanuela Soressi, io vorrei cominciare subito con te perché è un territorio che tu riesci a monitorare, appunto lo fai ovviamente soprattutto per lavoro con grande attenzione costantemente. Abbiamo avuto delle statistiche recenti non molto confortanti, i consumi delle famiglie italiane sono fermi praticamente da uno svariato numero di anni, lo hanno confermato gli osservatori della Confcommercio, lo dice tutta una serie appunto di associazioni dei consumatori, lo ha fatto anche Altro Consumo, i redditi d'altronde non aiutano. Qual è intanto lo scenario che si può dipingere relativamente in termini generali ai consumi delle famiglie? Sì, in effetti, come dicevi tu, c'è un calo che si protrae da alcuni anni. Solo un numero: nel 2009 ogni famiglia spendeva 461 euro al mese per gli acquisti alimentari, nel 2010, cioè un anno dopo, erano diventati 447. E adesso c'è un calo ulteriore, quindi gli italiani sono più cauti nello spendere al supermercato per gli acquisti alimentari e hanno cambiato il loro atteggiamento. Mentre prima si intendeva fare scorta di prodotti, adesso si limitano gli acquisti veramente ai beni essenziali e si compra all'ultimo minuto. E devo dire che in questo senso vengono in aiuto siti che permettono di consultare le offerte in corso nei supermercati e di metterle a confronto, e vengono in aiuto anche le attività promozionali che ovviamente la grande distribuzione in particolare spinge sempre di più. In questo senso poi vediamo che molte spese vengono rimandate alla quarta settimana del mese, un tema che è uscito con una certa evidenza negli ultimi anni, e c'è anche una ridefinizione del carrello della spesa a favore di alimenti più basici, quindi che hanno un costo comunque al chilo più basso, e anche in funzione di marche che sono meno costose, non necessariamente di primo prezzo, perché sappiamo che gli italiani badano molto anche alla qualità di quello che mangiano, di quello che acquistano, ma comunque marche che abbiano un miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi c'è una situazione di sofferenza generale e gli italiani comunque tendono a razionalizzare il loro stile di acquisto e a informarsi molto di più rispetto al passato sulle politiche commerciali, sulle promozioni offerte dai vari punti vendita. Carlo Pileri, presidente dell'ADOC, cosa dice l'Associazione dei consumatori? Quali sono le famiglie che stanno rivedendo la riorganizzazione del bilancio familiare, l'equilibrio fra entrate ed uscite, e quali sono le vostre percezioni relativamente al peso che temete possa avere la manovra ancora in gestazione nelle tasche delle famiglie italiane? Beh, intanto la manovra è ancora di difficile valutazione perché cambia da ora in ora e quindi non è facile pensarlo. Sicuramente un elemento c'è che viene dalle voci che girano, dalle informazioni che vengono sulla stampa, e che la gente, essendo più preoccupata, già comincia a contrarre i consumi ancora prima di sapere quali saranno le mazzate che si andranno a prendere. Quindi diciamo ci sta già un fenomeno negativo. È vero quello che diceva. Gliene aggiungo un altro, Presidente, solo perché mi ha incuriosito un messaggio di un ascoltatore che è arrivato da poco. Il peso dell'incertezza. Un ascoltatore dice: io vorrei che la facessero subito questa manovra. Non si rendono conto di quello che potrebbe succedere, ma effettivamente avere un quadro certo di fronte a sé forse aiuterebbe molto di più, non tanto per noi nei confronti della comunità finanziaria internazionale, ma anche in ambito domestico, direi. Assolutamente sì, è quello che cercavo di dire, perché è proprio questo, cioè l'incertezza e la preoccupazione comincia a far diminuire i consumi o comunque a razionalizzarli, che può anche non essere un errore. Le famiglie che sono interessate purtroppo sono sempre di più, non sono le famiglie a basso reddito, sono anche ormai le famiglie a medio reddito, perché i costi della casa in senso lato, quindi anche tutte le utenze, oltre che il costo dell'affitto del mutuo e i costi della vita quotidiana di una famiglia, che sono non elastici, portano a ridurre tutti gli altri consumi, e quelli che ne hanno risentito tantissimo in questi anni sono il settore dell'abbigliamento, delle calzature, dell'automobile e così via, cioè quei e dell'oreficeria, per esempio, che era un'azienda molto importante in Italia, un'impresa molto importante che si sta riducendo ormai al lumicino. Quindi diciamo che le famiglie interessate sono sempre di più e la ricerca di soluzioni alternative diciamo è sempre più frequente, e le offerte che ci sono sempre più frequenti, anche se vi sono molti punti sui quali bisogna fare attenzione anche nel low cost. Magari poi intervengo dopo su questo, però il low cost si sta trasformando e non sempre è un low cost conveniente. E infatti, anche perché c'è tutta una filosofia, per la verità, dietro a questo fenomeno, non è solo di esclusivamente ricerca ossessiva di ciò che costa ad un prezzo inferiore, c'è una precisa discussione appunto sull'argomento, sulla questione del rapporto tra qualità e prezzo. Poi magari avremo modo di tornare a riapprofondire questo tema. Intanto i nostri ascoltatori sono stati immediatamente sollecitati dalla domanda che ho fatto relativamente a cosa vi preoccupa di più rispetto alla manovra in gestazione. C'è chi ci scrive: della manovra mi preoccupano personalmente i destini che avranno gli incentivi del 55-36% sul risparmio energetico e ristrutturazione appunto della casa. E quindi salutiamo Simone. Effettivamente ancora lì non si è capito se verranno cancellati completamente, se verranno ridimensionati, perché è un tema che effettivamente interessa a molte famiglie che magari con un piccolo risparmio che hanno da parte volevano investire in questo, rimettere a posto la propria abitazione, e chiaramente se venisse meno questo incentivo la spesa potrebbe essere rinviata. Un altro ascoltatore invece, Fabio, ritorna sul tema della tassa sulla custodia del dossier titoli, appunto come fare per aprire più custodia titoli presso la stessa banca. Magari, Fabio, ritorneremo più avanti solo ed esclusivamente con una puntata dedicata a questo argomento, come abbiamo fatto anche nel corso dello scorso mese di luglio. Però questo comunque tanto per dire cosa sta generando maggiore preoccupazione appunto fra i nostri ascoltatori. Il carrello della spesa, che cosa dice Luciano Mazzone? Clicca promo. Le famiglie italiane, come ci diceva prima Manuela Soressi, hanno notevolmente razionalizzato il loro comportamento quando si tratta di andare a fare la spesa. Questo significa anche ricercare in maniera molto più oculata del passato le promozioni, l'offerta, utilizzando anche il canale internet? Assolutamente sì. Faccio una brevissima premessa. Noi ci occupiamo esattamente di questo. Con il nostro sito Clicca Promo recensiamo le offerte in corso da parte di 10 catene di supermercati e ipermercati, le più note almeno nel centro nord Italia, e a breve lo faremo in tutta Italia. Noi osserviamo esattamente le tendenze che venivano descritte in un intervento precedente, e chiaramente ne siamo molto felici perché è il focus del nostro lavoro. Crediamo fermamente che per le famiglie, per i consumatori, ci siano delle grandissime opportunità di risparmio semplicemente informandosi meglio prima di andare a fare la spesa. Opportunità di risparmio che nascono non solo dalle offerte in corso, ma anche per esempio dalla preferenza per alcuni articoli di marca commerciale, che consentono dei risparmi notevoli. Noi le recensiamo entrambe e quindi siamo in grado di dare una panoramica completa sulle occasioni di risparmio quando ci si recita anche al supermercato. Avete la possibilità di monitorare se dopo aver ricercato le migliori offerte promozionali poi effettivamente il consumatore va in quel centro commerciale a fruire di queste offerte, oppure solamente, come dire, un check-up, un controllo che il consumatore fa sul sito, poi la sua ricerca non si traduce poi in un comportamento effettivo? No, abbiamo delle informazioni di ritorno sia dal lato utenti sia dal lato catene, e a livello macro i numeri che si osservano sul mercato sono di un carrello della spesa che ormai per 4 prodotti su 10 è costituito da prodotti acquistati in offerta. Perché in offerta? Perché è in promozione. Quindi sicuramente c'è un impatto reale di tutto questo. La gente non si limita a informarsi, ma al supermercato effettivamente preferisce i prodotti in promozione. Benissimo, siccome poi immagino che lei conosca molto sul tema dei prezzi dei generi alimentari, poi le faccio fare anche una previsione su cosa potrebbe succedere al carrello della spesa nei prossimi mesi. Non tanto perché i generi alimentari aumentano di prezzo, credo che lì siamo su livelli di stabilità, ma cresce tutto il resto, crescono i carburanti, cresce il costo della luce, per cui tutto questo si trasferisce poi anche sul carrello della spesa. Non riesco ancora a far intervenire Andrea Manfredi di Supermani perché devo andare in pausa, le chiedo un minutino di pazienza, ricomincio con lei nella seconda parte della trasmissione, tra poco. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Salva Danaio oggi intanto riparte con una pessima giornata di borsa, come vi avevo raccontato. Lo spread fra il BTP e Bund ha toccato i 350 punti base, questa mattina sfiorati più volte, ormai siamo su questo livello. E noi di che cosa parliamo? Delle preoccupazioni delle famiglie, di come sarà necessario quest'anno, alla luce di tanti problemi economici internazionali, del mercato del lavoro nel nostro paese e anche di tutti i provvedimenti che sono allo studio da parte della manovra economica, quali sono le più importanti preoccupazioni delle famiglie, come stanno riorganizzando il loro bilancio familiare, quali spese nuove dovrete affrontare quest'anno, raccontatecelo, perché magari se ce n'è qualcuna per la quale possiamo darvi una consulenza su come spendere al meglio, magari stamattina riusciamo anche a farlo con i nostri ospiti. Prima di dare la parola ad un altro comparatore di offerte e tariffe, anzi per la precisione, Andrea Manfredi di Supermani, volevo sentire Matteo da Vicenza, perché io vi ho invitato anche a raccontarci quali sono appunto le preoccupazioni più importanti per il vostro nucleo familiare in questo momento, e vorrei sentire Matteo da Vicenza. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Matteo. Beh, dunque, diciamo che più che la manovra finanziaria, più che quello che si sente, che mi preoccupa, è quello che non si sente. Vale a dire che stiamo parlando di tasse, stiamo parlando di tagli, stiamo parlando di tutte cose a breve termine, ma non si sente mai parlare di nessun investimento in quello che sarà poi il futuro. Io ho 33 anni e ad oggi sto pensando di mettere su famiglia, di avere dei figli, ma non vedo, vedo molta difficoltà in questo, nel senso che seppur io e la mia compagna lavoriamo entrambi, non vedo nessuna prospettiva, nessuna facilitazione, nessuna apertura da parte del governo o comunque delle istituzioni che per favorire l'incremento della natalità. Noi siamo un po' miopi da questo punto di vista, cioè guardiamo nei prossimi 3 anni ma non ci rendiamo conto che in realtà sconteremo i problemi da qui a 20 anni probabilmente, se non investiamo in una politica di natalità, se non investiamo nella forza lavoro futura. Le pensioni per i nostri anziani oggi. Una piccola proposta dal mio punto di vista è questo: purtroppo le donne, le ragazze al giorno d'oggi non hanno facilità nel trovare lavoro, e nel momento in cui si trovano incinta molte volte vengono lasciate a casa. Il governo dovrebbe pensare, se non altro, a trovare una soluzione per questo. Io proporrei che, adesso non mi si prenda male, ma che le ragazze sotto una certa soglia di età, quindi sotto i 40 anni, potessero essere assimilate per le aziende che le assumono a persone diversamente abili, quindi abbiano le aziende che le assumono degli sgravi fiscali. Grazie Matteo, stavo ragionando sulla soglia dell'età che lei ha individuato, che mi mette immediatamente fuori dal mercato di riferimento. Detto questo, Matteo, la nostra trasmissione di questa mattina ha, come dire, anche se vi ho invitato effettivamente ad esprimere un po' le vostre preoccupazioni sugli interventi concreti che la manovra è orientata a fare e su come verrà riorganizzato il vostro bilancio in virtù di questo, prendo atto appunto anche della sua preoccupazione, che è quella legata al fatto che si tratta appunto di un giovane che non riesce ad avere nessun tipo di appiglio per poter concretamente concretamente mettere su famiglia, gli interventi a favore di giovani coppie, nuove famiglie appunto non ce ne sono. Credo che in una fase delicata come quella attuale purtroppo la questione sia far cassa immediatamente, farci raggiungere il pareggio di bilancio al 2013, e una rosa di problemi il governo li ha dovuti completamente accantonare, fra cui appunto quello che lei indica. Detto questo, se a Roma ci ascoltano, magari qualcuno così, c'è un ministero anche della gioventù che dovrebbe occuparsi di questi problemi, la Giorgia Meloni è molto intraprendente, prende tante iniziative e magari sarà stata sollecitata anche nel senso che lei dice. Andrea Manfredi, amministratore delegato di Supermoney, tra l'altro giovanissimo, posso chiedere un commento su quello che abbiamo appena sentito? Tutto vero, sicuramente non è un momento molto facile per i giovani. Io però porto un altro punto di vista, che è quello che sento molte persone giovani della mia età, anch'io ho 33 anni, in Italia lamentarsi e non fare cose. È in realtà il tempo di fare cose, quindi aprire imprese, lanciarsi e provare a far crescere se stessi e il paese. Pensare ancora, come forse era 50 anni fa, 60, ai tempi della ricostruzione, che tutto debba arrivare da fuori, purtroppo non è più così, quindi è inutile aspettarsi. Ci deve essere una presa di coscienza molto importante quindi da parte delle giovani generazioni. Ritorniamo al nostro seminato. Oggi noi parliamo delle famiglie, del budget familiare, della necessità di rivederlo in questo autunno che sarà molto difficile. Abbiamo parlato del carrello della spesa, ma nella famiglia si pagano anche le bollette, si utilizzano molto i telefoni, si utilizzano molto anche i conti correnti, si ha la necessità di chiedere prestiti, si devono fare delle spese importanti. Supermoney è un comparatore appunto di tariffe in tutti questi settori. Quali sono le voci più cliccate in questo momento, Manfredi? Supermoney è un comparatore che in effetti si occupa di tutto quello che attiene al bilancio familiare, lato servizi bancari, assicurativi e mondo delle utilities. Ad oggi sicuramente le aree che riscuotono più interesse sono quelle legate alle assicurazioni auto, in particolare perché in effetti la spesa media su un'assicurazione auto incide in modo forte sul bilancio familiare, e soprattutto poi per i mutui e per i prestiti, perché sono due elementi molto utilizzati in questo frangente, in cui le banche sicuramente tendono a non concedere più come 24 mesi fa soldi. E quindi si ricerca non solo la possibilità di avere un finanziamento a basso prezzo, ma anche la possibilità to cure di avere un finanziamento. Bollette, luce e gas, l'autorità ha di nuovo alzato appunto le tariffe a partire dal 30 giugno, quindi per il nuovo bimestre. Questa è una voce di spesa che per esempio preoccupa le famiglie? Assolutamente sì, lato utility, sia luce e gas che la parte di telefono. Questo perché luce e gas c'è una fortissima incidenza soprattutto per la parte di riscaldamento. Sta continuando ad aumentare, ormai è un trend inarrestabile, i costi delle bollette. Il libero mercato in Italia è partito ma non è ancora così forte, quindi c'è un interesse sempre maggiore per cercare di capire come risparmiare. C'è una difficoltà concreta perché sulla parte energetica il mercato italiano non è ancora effettivamente pronto per offrire grossi cambiamenti. Tanto per dare dei numeri, le stime che noi facciamo fanno vedere che sulla parte di luce e gas si può risparmiare qualcosa nell'intorno del 10-20% della bolletta, che per la maggior parte di persone vuol dire in cumulato 200-300 euro a bimestre. Quindi sicuramente un risparmio significativo, ma non è il risparmio che si può avere con l'RCA, dove in un colpo solo, una volta all'anno, si possono risparmiare 300-400 euro, che sono il 40-50% della propria assicurazione. È ancora valido l'assunto secondo il quale, soprattutto rivolgendosi alle compagnie dirette, quelle che operano esclusivamente online, che siano i risparmi più alti, Manfredi? È valido per i profili che le compagnie definiscono buoni, quindi centro-nord in alcune città. Non è valido per le altre. L'unico assunto valido è quello: bisogna confrontare tutte le compagnie assicurative, o quantomeno un panel molto consistente di compagnie, perché il modo in cui le compagnie fanno i costi, il pricing, i costi delle loro polizze varia in modo molto molto forte. Quindi non c'è assolutamente un tema di qual è la compagnia migliore, c'è un tema che ognuno di noi ha una compagnia migliore a seconda della propria situazione. Allora, intanto sto cercando di orientarmi fra i numerosissimi messaggi che stanno arrivando dagli ascoltatori. In molti continuano a ribadire il concetto espresso anche dall'ascoltatore che è intervenuto prima: ci si preoccupa molto, a quanto pare, per una manovra che non protegge le famiglie. Questa è un'ascoltatrice che ce lo scrive per La Verità. C'è anche chi ci scrive: ma che razza di imprese volete aprire, Manfredi? Perché qualcuno insomma non ha Arena tutta questa audacia, sicuramente, anche perché poi per aprire un'impresa bisogna andare in banca, qualche volta a farsi finanziare, anche lì è un altro percorso un po' complicato, poi magari in un'altra puntata le farò raccontare lei come le è venuto in mente di Supermoney. Altri ascoltatori invece guardano con preoccupazione al mutuo, la Banca Centrale Europea deve ridurre i tassi altrimenti i mutui aumentano, le tasse aumentano e la gente non spende. Stefano, credo che almeno da questo punto di vista noi potremmo stare abbastanza tranquilli sul fronte tassi di interesse, perché credo che ormai la Banca Centrale Europea si sia fatta passare la voglia di aumentare nuovamente i tassi entro la fine dell'anno. Speriamo che non diventi ulteriormente rarefatto il credito interbancario, perché poi se aumentano i tassi interbancari è il problema, non tanto quello che fa la Banca Centrale Europea. Carlo Pileri, fino a questo momento le osservazioni che abbiamo sentito, quali osservazioni hanno prodotto invece nella sua testa? Ha sentito il tema sollevato dagli ascoltatori, non si pensa alle famiglie. Beh, sicuramente non c'è nessuna iniziativa che sia né volta al rilancio dei consumi né a tutela dei redditi delle famiglie, dei lavoratori dipendenti e pensionati, anzi l'ipotesi dell'aumento del 1% dell'IVA rischia di contrarre ulteriormente i consumi e quindi di avvitare la crisi in una situazione ancora più difficile. Volevo anche dire qualcosa per quanto riguardava le assicurazioni low cost, sì, le assicurazioni online e il low cost in generale, come avevo accennato nel mio primo intervento, ma il low cost è un modo per poter vivere spendendo meno e avendo gli stessi livelli di vita che si avevano prima della crisi, diciamo, quindi dal discount supermercato agli aerei low cost all'assicurazione online può essere un sistema per poter risparmiare anche moltissimo. Il problema che si sta verificando, che noi stiamo notando come ad hoc da qualche mese, è che il low cost sta diventando però una strategia di marketing, nel senso si offre come low cost qualcosa cosa che poi low cost non è, e arrivo alle assicurazioni. Ci sono stati segnalati di casi, e diceva giustamente bene prima nell'intervento, che è vero, dipende dai profili e dalla zona in cui ci si trova, ma situazioni in cui si arriva ad accedere all'assicurazione all'inizio, quindi con il livello più basso, costa di più l'online che addirittura andarlo a fare in agenzia, dove si hanno sconti maggiori. Però l'online attira, lo stesso avviene per le compagnie aeree, vi sono alcune compagnie aeree tradizionalmente low cost che oggi fanno prezzi che sono concorrenziali in alto alle compagnie tradizionali, e perfino i discount oggi, discount alimentari ed altro, riescono a vendere prodotti a prezzi pari agli altri supermercati e agli altri centri commerciali, però attirando in quanto discount e in quanto low cost. Quindi è un low cost che bisogna controllare, perché altrimenti si rischia di trovare brutte sorprese. Benissimo, allora vedo che tra l'altro queste sue osservazioni, Pileri, stavano facendo annuire gli ospiti che ho in studio, allora da questo magari ripartiamo, se dobbiamo anche difenderci da tutto questo, adesso qua non finiamo più, insomma, a dare suggerimenti alle famiglie. Eccoci ritrovati in diretta, allora strategia di difesa delle famiglie per affrontare un autunno che sarà molto caldo, speriamo che tra l'altro non lo diventi, cioè abbiamo già domani uno sciopero generale anche dal punto di vista sindacale, perché sennò siamo a posto. Ma allora Alessandro da Ravenna ha già pensato di riorganizzare le abitudini della sua famiglia? Sì, intanto buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Sì. Sì, abbiamo anticipato di circa 6-7 mesi, abbiamo fatto un bilancio familiare a gennaio, abbiamo tirato la riga di tutte le spese, abbiamo fatto delle classi ABC e abbiamo iniziato a tagliare sulle spese più grosse. Per esempio quest'anno ad agosto non siamo andati via, abbiamo anticipato per chi può ai primi di luglio. Stiamo pensando comunque di dismettere la TV a pagamento, ci stiamo riorganizzando un po' con le bollette luce, gas, energia, verificando rispetto alla situazione attuale eventuali offerte migliorative, acquisti su low cost e soprattutto sull'alimentare, ma non è un acquisto, diciamo, all'arma bianca, è selezionato, quindi detersivi, acqua, insomma roba che può essere anche considerata come secondo prodotto di qualità e che non incide, diciamo, sulla qualità della vita in generale. Ecco, comunque abbiamo iniziato già da un annetto a tirare un po' la cinghia, anche perché io un paio di anni fa ho già fatto un anno di cassa integrazione, adesso fortunatamente siamo stati riassorbiti. Però dice non è aria di scialacquare. No, è che io confermo tutto quello che è stato detto fino adesso, purtroppo ci sono nubi all'orizzonte e neanche un'alba, neanche quasi serena, ecco, vediamo solo nubi, quindi io ripeto, io e mia moglie siamo due impiegati, prendiamo benino, ma fino al 2005 mettevamo via uno stipendio intero, adesso facciamo quasi fatica con due, quindi questa è la situazione. Alessandro, comunque grazie anche per le sue indicazioni molto pratiche su come si è comportato, insomma si è messo a tavola con la sua compagna e ha detto tiriamo un po' una riga su tutte le spese che abbiamo fatto fino a questo momento e vediamo dove possiamo tirar via qualche spesa di troppo che effettivamente non comporterebbe anche un elevato sacrificio. Certo che tagliare sul carrello della spesa però non è molto divertente, Luciano Mazzone. Allora diamo qualche, stiamo andando già verso la chiusura della trasmissione, indicazioni molto pratiche per fare la spesa con serenità, portando a casa dei buoni prodotti, facendo anche un buon confronto, insomma indicazioni utili che sono quelle che servono ai nostri ascoltatori. Ma sicuramente il nostro consiglio è di parte ed è quello di usare un motore di ricerca per orientarsi prima di andare a fare la spesa, che è proprio la missione di Cliccapromo. Al di là della battuta è molto vero quello che diceva il presidente dell'ADOC in precedenza, non esiste un low cost assoluto o una catena, anche nell'alimentare o una catena di supermercati, che sia sempre più conveniente su qualunque prodotto si voglia acquistare. Bisogna proprio per questo informarsi prima di scegliere il supermercato e decidere quali articoli acquistare dove, perché si possono cogliere delle opportunità di risparmio a volte anche del 40, 50, 60%. A parità di carrello della spesa, per esempio, cogliendo tutte le occasioni promozionali che ci sono, si può addirittura arrivare ad un risparmio di questa entità? Noi abbiamo stimato per esempio un carrello della spesa al rientro dalle ferie, che include una grossa spesa per riempire nuovamente la casa dopo le vacanze, e coi prezzi medi stimati dall'osservatorio del Ministero dello Sviluppo si spenderebbero 180 euro, con un'attenzione media alle offerte 110, quindi se ne risparmierebbe il 40%, 70 euro, con un'attenzione estrema alle offerte, quindi muovendosi fra vari supermercati e comprando sempre al prezzo più basso si arriverebbe addirittura a un risparmio del 60%. So che avete monitorato voi in queste prime settimane, in questi primi giorni di settembre, anche la spesa per la cancelleria per la scuola, perché questa è veramente una voce molto rilevante in questo periodo dell'anno per le famiglie. Certo, allo stesso modo abbiamo stimato una spesa media, un acquisto medio di alcuni prodotti, dalle gomme ai quaderni, alle matite e così via, e abbiamo scoperto che mediamente gli italiani per ogni figlio a scuola spenderanno circa 57 euro. Con un'attenzione alle offerte è possibile scendere a 35, quindi anche qui con un risparmio dell'ordine del 35-40%, molto significativo. Andrea Manfredi, Supermani, andiamo alle altre voci di spesa. Il telefono, non ne possiamo fare a meno, non c'è niente da fare. Per scegliere l'ultimo modello siamo capaci di andare a curiosare in decine di negozi, poi però le tariffe come le confrontiamo, insomma in maniera matura, consapevole, oppure prendiamo la prima che ci capita? Le tariffe prendiamo assolutamente ancora la prima che ci capita, soprattutto guardando al telefono e non alla tariffa. Questa è la prima cosa sbagliata che viene fatta. Con tutti i nuovi modelli di smartphone e con tutto quella robina là. Ma ecco. si può confrontare anche in questo. Sul telefono in particolare è facile risparmiare nell'ordine dei 300 euro telefonia mobile per un profilo medio-alto, 300 euro al mese, continuando tranquillamente ad avere l'ultimo modello di telefono, semplicemente andando a scegliere qual è l'operatore in quel momento più conveniente. Attenzione al fatto che sono contratti tipicamente molto lunghi, quindi è sempre molto importante andare a vedere la scelta fra la lunghezza del contratto e la convenienza dello stesso. Qua in particolare io mi riaggancio su un ragionamento fatto precedentemente, ed è un consiglio secondo me più importante, sicuramente confrontare, questo senza dubbio, ma non solo confrontare, bisogna concretizzare il risparmio, quindi andare su un sito web e fare l'utilizzo del sito per informarsi è bello fino a un certo punto, è bello fino a un certo punto perché è sterile, invece bisogna poi andare e essere certi che il prezzo che uno può ottenere sia effettivamente quello che uno ottiene. Sicuramente noi in questo offriamo un servizio perché diamo una mano a concretizzare supportando l'utente e il consumatore nel processo di acquisto, ma è importante che l'utente e il consumatore lo faccia anche autonomamente da solo quando si ritrova all'interno dei negozi degli operatori che noi confrontiamo. E infatti, tra l'altro, è sempre vero che il prezzo in assoluto più basso è anche quello in assoluto che può essere considerato più conveniente, perché non è detto che sia così. No, assolutamente no, questo è un altro grosso tema. Noi nasciamo in realtà come società legata all'innovazione tecnologica e abbiamo fatto della nostra, la nostra forza il fatto di aver costruito degli algoritmi di calcolo molto complessi internamente che permettono di valutare la qualità insieme al, al costo, qualità intesa come aderenza ai propri bisogni. Quindi è inutile che io ti faccia vedere la tariffa telefonica più conveniente per un profilo che spende molto poco. Poi magari quella compagnia ha un pessimo call center che non ti risponde, non ti dà l'adeguato servizio, quindi tutto il risparmio l'hai vanificato. Esattamente, quindi questa è una cosa estremamente importante, estremamente complessa, che noi cerchiamo di tenere dentro all'interno dei nostri algoritmi di confronto. Certamente poi si rientra in un campo soggettivo che non è quello del costo vero e proprio, e quindi è un campo che diventa difficilmente oggettivabile. Qua sta la difficoltà. Tra l'altro c'è un altro grande problema, non abbiamo il tempo di svilupparlo questa mattina, ma sia per quello che riguarda la telefonia sia per quello che riguarda luce e gas, sono mercati appunto dove oggi è più possibile una portabilità appunto rispetto al passato, sono mercati liberi, ma effettivamente poter fare un confronto molto molto preciso che ci dia effettivamente la capacità di comprendere come funziona la bolletta sia in un campo che in un altro appunto è molto complicato, per cui effettivamente il tema del confronto è delicatissimo, è importante, ma farlo in questi settori è per un utente medio un lavoro improbo. Infatti quello che noi stiamo cercando di fare da questo punto di vista sulla parte di telefonia, quindi tutte le tariffe telefoniche legate alla parte mobile cellulari, è un nuovo sistema tecnologico per cui, partendo dal proprio numero di telefono che ci viene comunicato con tutti i disclaimer della privacy, sarà per noi possibile in automatico ritornare via SMS qual è il risparmio e l'operatore migliore. Questo è un sistema molto complesso su cui stiamo lavorando da alcuni mesi, per la seconda metà del prossimo anno credo che dovremo avere il sistema pronto, e questo sarà rivoluzionario per il mercato. E allora, per tutte le voci di spesa che ci sono rimaste fuori, invito i nostri ascoltatori a prendersi il sole, se lo vorranno, pagina 6, oggi la famiglia rifà i conti. Io ringrazio Luciano Mazzone e Andrea Manfredi per essere stati con noi. Ricordo, clicca promo, tutto con le K, perché sennò gli ascoltatori vanno tutto cercando con la C, quindi almeno 3K. Ricordo 3K. Superman invece si scrive tutto attaccato così. Ringrazio anche Carlo Pirelli di Adoc. 30 secondi però li posso concedere a Manuela Soressi, perché sennò penserà che l'ho abbandonata. Abbiamo aperto con te, Manuela, una conclusione su tutto quello che abbiamo detto questa mattina. Autunno di preoccupazione secondo te per le famiglie? Cosa dovremmo raccontare ancora? Sì, autunno di preoccupazione, sentimento di timore, di paura per una manovra che non è chiara e che non si sa come colpirà la famiglia, ma in qualche modo sapremo che la colpirà. Due osservazioni su quello che hanno detto gli ospiti, sono assolutamente rapidissima perché devo chiudere, sì? Ma attenzione, non sempre le offerte, attenzione, il prezzo non è tutto, nel senso che se il punto vendita più conveniente è molto distante da casa e bisogna frequentarlo con regolarità, la benzina costa. E infatti, quindi il prezzo non è tutto. E infatti Luciano Mazzone infatti dice, io infatti lo volevo dire, ma la trasmissione stamattina ci è sfuggita di mano, eravate in tanti, però abbiamo dato, speriamo, qualche messaggio utile a chi ci ha ascoltato. Grazie a tutti, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Torniamo domani, buona giornata.